Non ci sono più le mezze stagioni, con me Roberta Giordano e con i vostri commenti sulle notizie della settimana. E in questa puntata in compagnia di, signore e signori, Paola Binetti, parlamentare dell'UDC, ma soprattutto autrice di un libro molto attuale coi tempi che corrono, almeno nel titolo, Etica e Democrazia. Quante cose da commentare anche questa settimana, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Non perdetevi dunque, Non ci sono più le mezze stagioni, sabato alle 14 su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.